FM。 With another guy, his arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Yeah. Well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. With him, he's turning down the lights and now he's holding her the way I used to do. I could see her closing her eyes and telling him lies exactly like she told me to. Yeah, well, here it comes. I Them con Van Morrison con le note di questa storica Here Comes the Night. Un saluto a Gianni in quelle di Palermo Dugnano, il pistola che come al solito è sulla cattiva strada quando scrive queste cose, che non cito assolutamente. Un saluto anche al Marra da Pisa e Tiziano da Livorno, buona giornata a voi. Beh, in sottofondo è proprio quello nuovo dei Motley Crue, sono proprio loro, stanno per tornare, sembra che l'album doveva chiamarsi Dirt, invece si intitolerà come il singolo, questa Saints of Los Angeles. We signed our life away. got pants in pocket. Got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa. Gonna use my fingers, gonna use my, my, my, my legendary. Pezzo storico memorabile per la formazione di Mark Bolan e i suoi Tyrannosaurus Rex, e c'è anche una notizia legata proprio in genere ai T-Rex, al loro primo album che veniva pubblicato, se non sbaglio, nella fine degli anni 60, siamo nel 1968. L'album però viene pubblicato, ma arriva al numero uno un po' più tardi, 1970, e la cosa strana è che il titolo è forse, se la memoria mia arriva a, sino a quel periodo eccetera, è forse il titolo di un album, non tanto di canzoni, che a volte c'è qualche pazzarellone che si diverte a dare un titolo chilometrico, ma questi sono ben 3 righe e mezzo. Un titolo è Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages. My people were fair and had sky in their hair, but not their counted to wear stars on their brows. Questo è il titolo dell'album, impossibile da tenere a mente, veramente impossibile, però così fu. Hanno deciso così, una vera e propria frase intera, e venne scelto questo come titolo del primo album dei Tyrannosaurus Rex. Invece prima del prossimo compleanno andiamo ad ascoltarci ZZ Top e Mercy Playground. Get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's, and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh about myself, and then there she was, like double cherry pie. Yeah, there she was, like disco superfly. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was, in platform double suede. Yeah, there she was, like disco lemonade. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Yeah, yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Dig it. Yeah, mama, this surely. Mama, this surely is a dream. Yeah. Yeah, mama, this must be my dream. grande singolo che arrivò al numero uno nelle classifiche di vendita americane. Questa Hold My Hand per Hootie and the Blowfish, e oggi 6 di maggio del 1967 nasce il loro chitarrista Mark Bryan. Pensate che hanno venduto comunque con il loro album più di 15 milioni di copie. Ormai si sono ritirati, penso, con quel po' di vendita e di incasso, bravi loro. Era Hold My Hand alle 10:24 su Rock FM per Hootie and the Blowfish. To go, no, no.